buy a paper doll that I can call my own, a doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollars that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all the world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. Ma catara na pupete carta che possa chiamare tutta mia. Na pupete lo auge picciotto non posso rubare. E pullo figlio figlio picciotto, pullo figlio figlio occhio, a portare con l'auge femmina, be davvero. E quando viene dentro mi stai aspettando. E se è la tua dolce pupete tutto il mondo. E voglio guardare una pupete carta che possa chiamare tutta mia. Then have a fickle-minded real-life girl. Cattara una pupete carta che posso chiamare tutta mia. A pupete l'auge picciotto non posso rubare. E poi figlio figlio picciotto, culo figlio figlio occhio, abitare con l'auge femmina, mi davvero. E quando fino rinzo mi stai aspettando. E se è la giù ci pupete tutta la munna. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded girl who keeps me in a whirl. I'll buy a paper doll to call my own.